E la depressione è quando l'energia vitale, anziché essere a disposizione, esplosiva, invece comincia a ristagnare, è la depressione, che è conseguenza della inibizione. Cioè l'azione che verrebbe spontanea. C'è una prepotenza, sarebbe da rispondere subito. Allora lì c'è un'inibizione. E allora questa forza non è che se ne va, ma va contro di sé. Quindi noi diventiamo nemici di noi stessi. Riceviamo un'aggressione, c'è l'implosione. E poi cosa succede? Che la naturale spinta a dire aspetta, viene ritorta contro. Quindi quella che sarebbe la spinta naturale, dire mi spingi, ti spingo, ti tengo al posto, questa spinta non è che se ne va, uno dice ma io sono buono come un fagiolo bollito, ecco. Che è una caratteristica di alcuni fagioli, non tutti, ma alcuni fagioli bolliti sono buonissimi, cioè teneri, teneri, si spappolano, no? Per cui gli puoi fare quello che vuoi, fai così e si spappola. Ecco, ma non se ne va questa cosa, semplicemente anziché essere verso l'oppressore, c'è cioè un'oppressione verso l'io, cioè il tuo io viene oppresso da qualcuno, anziché l'energia che tiene fuori l'oppressore, questa energia si ritorce contro l'io stesso. Quindi fa così. Non è difficile, no? Capire. Cioè, quindi essere buoni non significa inibire per scaricare poi contro di sé. Cioè è naturale che di fronte all'oppressione, di fronte all'ingiustizia, di qualunque tipo, ci sia quella che i greci chiamavano la nemesis, cioè la risposta immediata. Ton ton, finisce lì poi, ton, finisce lì. Mi fai così, faccio così, tutto, finito. Poi ci giriamo, forse come prima. Invece no, tu mi fai così, io faccio. E comincia a covare, covare, covare, covare. Dopodiché questa cosa che è durata un secondo, dura un anno. Un lavorio mentale, fisico, infinito. Ecco, questo si chiama anche l'inibizione dell'aggressività o in termini più della rabbia, che nel mondo animale dura un secondo, 2 secondi, 3 secondi, poi finisce, fa così, poi finisce, basta. Qui l'animale è tranquillo, qui si arrabbia, fa così e qui è finito, calmo come prima. L'essere umano fa così, qui si inibisce, 5 giorni. Non è che se n'è andata, va dentro. Ecco, questo è l'inizio di quasi tutte le malattie. Perché l'energia vitale, anziché fare il suo corso, inibita qua, viene bloccata, si cronicizza. Quindi i muscoli agonisti e antagonisti vengono messi in funzione entrambi. Mi fermo, sto per partire, no, mi fermo, quindi si blocca muscolo agonista e antagonista, tutte e due, si mettono uno contro l'altro. Nel mondo animale questo accade rarissimamente perché abbiamo 3 modelli, che è l'azione diretta, cioè, va. Oppure la fuga, quindi animale, ti aggredisce un animale con cui puoi difenderti, ti difendi e aggredisce a tua volta in modo che poi finisce lì. Se è troppo grosso, scappi via più veloce che puoi, oppure c'è in mezzo una temporanea inibizione. temporanea che dura poco, cioè ci blocco. Quindi l'azione contro, la via da, oppure scappi, oppure ti inibisci. Tutte queste tre durano pochissimo, tempo necessario, pochi secondi. Dopodiché tutto ritorna in calma. Il blocco dell'azione in particolare ci interessa quando un animale più grande, predatore, raggiunge una preda, magari ieri riesce ad afferrarla, la preda si paralizza. E l'inibizione serve in quel caso a trattenere tutto, ad avere gli orecchi, gli occhi, tutti i sensi prontissimi, in modo che se quell'altro viene distratto, c'è un altro predatore, un'altra cosa, fa così, boom, sei subito pronto. C'è una forma di dissociazione in quel momento, ecco, una forma di dissociazione, è come se quello che noi facciamo quando siamo in quello stato è come ci vedessimo da fuori. Qualcuno di voi è mai caduto di moto, ha caduto, ha fatto qualche brutto incidente? Gli è capitato di vedersi al rallentatore mentre cadeva? Ok, qualcuno di voi l'ha capitato. È capitato una volta di cadere da una moto e il mio tempo era tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Cioè rallentato, perché anche il rallentamento ha delle sue funzioni, nel senso che hai, come dire, un maggior margine di controllo comunque. La mente inconscia è prodigiosa su questo. Cioè noi abbiamo dei sistemi mentali che sono prodigiosi, se però vengono disarticolati dalla cultura, cioè creiamo una cultura tossica in cui questi sistemi vengono inibiti, beh, un filo di depressione ce l'abbiamo. Ecco, ce l'aveva. Quindi Freud non aveva tutti i torti quando diceva, parlava del disagio della civiltà. Cioè nella civiltà noi, diceva Freud, barattiamo parte della felicità per un po' di sicurezza. Cioè, pur di non mettermi in contrasto con te, non ti dico niente, trattengo, ma trattenendo diventa un'abitudine, trattengo, trattengo, trattengo, e divento una rana bollita. Cioè, dopo diventa il mio metaprogramma, trattengo, trattengo. Quindi la mia relazione con te non è più sana. È mediata da che cosa? Da una paura. Chiaro?